Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e ben ritrovati in questa nona puntata del Nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi. È la seconda di questo 2025 che è iniziato come era finito il 2024 con l'estrema destra e i fascisti sempre più presenti e sempre più una presenza sempre più ingombrante. Con me in questa puntata c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff. Ciao, ciao, ciao a tutte e a tutti. In questa vado a presentare il nostro ospite di questa puntata che è Giuliano Benincasa, assegnista di ricerca di giurisprudenza presso l'Università di Bologna e autore di Mala Capitale di The Crime Terror Nexus, i rapporti tra criminalità organizzata ed eversione neofascista nell'Italia repubblicana. Ciao Giuliano. Ciao a tutti, buonasera e grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ti faccio una prima domanda, ovvero la propaganda fascista è stata da sempre abilissima nel dipingere il regime mussoliniano quale acerrimo nemico della mafia. Nei fatti però non è così, perché come hanno dimostrato tanti episodi storici, e se potresti illustrarci i rapporti del regime prima e dopo l'8 settembre del 1943. I rapporti tra regime fascista e mafia sono dei rapporti molto particolari. Innanzitutto dobbiamo un po' scardinare quello che è un cliché tipico tutto italiano, la mafia come soggetto vicino ai meno abbienti. In realtà la mafia nasce in una dinamica totalmente opposta, nel senso che la mafia nasce come soggetto a tutela dei cosiddetti poteri forti, no? La questione della terra, il grande latifondo, è il cavallo di battaglia di un soggetto come quello mafioso che si erge a sistema di protezione. Gambetta, in un libro molto importante, la definirà appunto l'industria della protezione. Ecco, proprio all'interno della dinamica appunto agraria del grande latifondo, la mafia incontra a un certo punto della storia repubblicana il ventennio fascista. Il ventennio fascista, e in particolare il fascismo, si propone dal punto di vista propagandistico come soggetto che vuole scardinare la criminalità organizzata e la piccola delinquenza in Sicilia, individuando in quel problema del disordine pubblico, un problema che in realtà ha sempre contraddistinto la Sicilia. La Sicilia, per storia, è una realtà anarchica che difficilmente si è prostrata a quelle che sono le indicazioni del cosiddetto governo centrale. Pensiamo anche rispetto al Regno Sabaudo, no? Addirittura dovettero andare Sonnino e Franchetti per redigere una relazione che in qualche modo giustificasse il fatto che i siciliani erano restii ad accettare il dominus calato dall'alto. E ad esempio la ricognizione che fu fatta appunto da Leopoldo Franchetti è un bellissimo squarcio di quella che è la questione criminale italiana, che tuttora trova dei riscontri attualissimi, sebbene sia stata scritta e pensata a metà dell'Ottocento. Quello che invece fa il ventennio non è altro che una propaganda che tende in qualche modo a dare le risposte sul terreno della sicurezza, qualcosa che oggi conosciamo benissimo, e che individua inizialmente nel fenomeno mafioso il cosiddetto simulacro, ovvero un nemico idealtipico da andare a combattere sul territorio. Questo in realtà fattivamente non viene, perché noi, dati alla mano, vediamo come ad esempio Mussolini sceglie di inviare un uomo di fiducia, che è Cesare Mori, per fare questa sorta di battaglia pubblica al fenomeno mafioso, ma Mori, giunto in Sicilia, incapperà in quello che è, diciamo, un fenomeno di classi altolocate, quindi non un fenomeno di classi meno abbienti. Una volta riscontrato questo tipo di humus su cui agire, effettivamente l'azione di Mori viene esercitata sul territorio, però a un certo punto è costretto a fermarsi quando coglie che c'è un fortissimo legame tra quelli che sono i cosiddetti grandi proprietari terrieri, e quindi i grandi politici, i grandi interlocutori della politica siciliana del tempo, e quelle che sono in realtà le dinamiche che riguardano anche i rapporti col ventennio, che in quel periodo trova e ha necessità di trovare dei grossi interlocutori, no? Anche le posizioni che vengono assunte da grandi intellettuali e uomini delle istituzioni siciliane in quel periodo, fino a Chiaro Aprile, Orlando, ad esempio, sono posizioni ambigue, perché gli uni, ad esempio, rilanciano il cosiddetto sicilianismo, ovvero approfittano dell'incursione dei fascisti in Sicilia per rilanciare la tematica tipica anche del dibattito pubblico siciliano, qual è quella dell'indipendenza della Sicilia dal dominus centrale, come ho detto prima. Altri invece sceglieranno, faranno il passo più lungo della gamba, addirittura poi candidandosi dentro il cosiddetto listone fascista. Morale della favola, quella che doveva essere un'azione di epurazione del fenomeno mafioso in Sicilia non avrà mai luogo, anzi tutt'altro, Mori verrà richiamato a Roma, verrà ricoperto di grandi encomi, eppure l'azione del governo del ventennio fascista contro i mafiosi in realtà non avrà mai luogo, anzi si occuperà esclusivamente di piccola delinquenza. Un conto il contrasto a quello che era un altro fenomeno tipico del sud, che era il banditismo, un conto il contrasto al crimine organizzato di stampo mafioso, ben più strutturato e radicato, che invece poi a conti fatti il ventennio fascista non porterà mai a pieno compimento. Gli strascichi di questo fenomeno li vedremo molto più là, con quella che sarà la strage di Portella della Ginestra, che il primo maggio del 47 avrà un suo forte significato politico, perché proprio in quel territorio, in quell'enclave, laddove le sinistre avevano costruito un piccolo laboratorio politico che li aveva portati alla vittoria delle elezioni regionali del 46, il primo maggio del 47, festa che era stata proprio soppressa dal ventennio fascista, un brigante, Salvatore Giuliano, compirà una strage alquanto anomala e in qualche modo traccerà poi quello che è un sentiero, un canovaccio tipico anche di altri fenomeni recenti della storia repubblicana che noi conosciamo benissimo sotto l'effigie dello stragismo, no? Certo. Quindi si può dire che erano due, sono stati due fenomeni che si sono, diciamo, assomigliati molto, no? Sì, sono due fenomeni che sono assomigliati molto, anche perché noi abbiamo questo marchio di fabbrica anche qui tutto italiano, una peculiarità tutta italiana, per cui tante volte abbiamo gli esecutori materiali, ma non abbiamo i mandanti di quelle stragi. Salvatore Giuliano altro non era che l'esecutore materiale. Noi qui a Bologna stiamo celebrando un processo bis per la strage alla stazione di Bologna, la cui narrazione pubblica per decenni è stata quella dei cosiddetti esecutori materiali, no? I cosiddetti nuclei armati rivoluzionari, di cui magari parleremo dopo, però non vi erano i mandanti. Oggi, depositate anche le motivazioni del secondo grado contro Paolo Bellini, scopriamo che effettivamente una cabina di regia vera e propria c'è stata, e che porta anche un nome di una figura molto ingombrante per la storia del secondo Novecento, che è quella appunto di Licio Gelli, della loggia massonica P2. Vai, Raff. E invece, sempre rimanendo tra rapporti mafia e fascismo, partendo poi da dopo il 2 giugno 45, quindi, come hai detto tu, dalla strage di Portella della Ginestra, quali sono stati i rapporti che si sono consolidati tra i vecchi che stavano nel regime e la criminalità organizzata? Sì. Diciamo, questa è la domanda che ha un po' animato l'ultima pubblicazione di cui abbiamo parlato in apertura, il mio ultimo libro, nel senso che c'era all'interno e c'è tuttora all'interno della letteratura scientifica e non solo italiana un grande disordine su questo punto, anche dal punto di vista dei termini che sono stati utilizzati. Tante volte si usa impropriamente il termine convergenza oggettiva per spiegare una sorta di avvicinamento tra questi due fenomeni. In realtà, dati alla mano e storie alla mano, scopriamo che i fenomeni sono fenomeni anche abbastanza di continuità tra loro, che portano anche a sfociare in altre situazioni di cui magari parleremo dopo. Per tornare alla tua domanda, il primo, diciamo, momento di potenziale, e parlo di potenziale appunto non a caso, di potenzialità, avvicinamento, avviene a ridosso del 1965, perché la galassia neofascista nel 65 è scossa da uno dei più importanti elementi e momenti di confronto della storia italiana del neofascismo, ovvero il cosiddetto convegno della guerra controrivoluzionaria presso il Parco dei Principi, che è un hotel di Roma, finanziato dall'Istituto per gli Studi Militari Alberto Poglio. All'interno di questi 2 giorni di convegno, i grandi pensatori del neofascismo italiano, alcune figure importanti istituzionali, alcuni uomini anche appunto dell'aeronautica, dell'esercito italiano, si ritrovano per pensare un po' quella che era una strategia di guerra che doveva essere nient'altro che il proseguio di quello che era stata la guerra finora intesa come guerra, come conflitto, sia del primo che del secondo conflitto mondiale, nel senso che essa, dati alla mano, si verificava quale fenomeno. Il fatto di aver compreso che la guerra nei canoni ortodossi che si erano combattuti fino allora era dispendiosa per gli stati e anche in termini di risorse umane, quindi andava ricodificato un nuovo concetto di conflitto. Si guardava a quello che stava avvenendo nel sud-est asiatico e si iniziava a teorizzare una sorta di guerriglia controrivoluzionaria, guardando appunto a quelle che erano le forme di resistenza che stavano avvenendo nel sud-est asiatico. In questo senso, trova quindi all'interno di un dibattito tutto tipico dell'estrema destra, in particolare dell'area più militare dell'estrema destra, quel termine che poi noi scopriremo barbaramente il 12 dicembre del 69 in Italia, che è il termine di guerra a bassa intensità. a un certo punto gli uomini dell'intelligence americana, gli uomini dell'estrema destra italiana, gli uomini dell'esercito, gran parte di uomini e di generali dell'esercito italiano capiscono che una nuova forma di conflitto e di guerra deve essere combattuta per portare in qualche modo ancora avanti quel vessillo nostalgico che molti continuano a vedere, diciamo, come un'utopia, no? La cosiddetta utopia golpista che rimarrà poi in Italia in auge fino al 1974, che è l'anno dell'ultimo tentato golpe, il cosiddetto golpe bianco di Edgardo Sogno, no? Fino a quel punto loro inseguiranno questa chimera e dovranno ovviamente fornirsi e dotarsi di strumenti per inseguirla. Quale strumento migliore sono la cosiddetta guerra non ortodossa, guerra a bassa intensità, che poi verrà barbaramente chiamata, appunto, nel 69, da Piazza Fontana, come strategia della tensione. In realtà non è un termine che noi scopriamo in Italia con il 12 dicembre 69, è un termine che è già stato abusato da un quotidiano britannico che è il The Observer, che rinvenendo alcuni documenti dell'ambasciatore greco in Italia, darà questo scoop di questo, diciamo, nuovo codice di condotta dei conflitti in Europa poche settimane prima appunto della strage di Piazza Fontana. Allora, il primo momento in cui noi dobbiamo interrogarci è capire se effettivamente c'è un interesse da parte di queste due soggettività, la criminalità organizzata e l'estrema destra, a venirsi incontro, a cercarsi, esattamente questo, perché è ovvio che quando tu devi costruire un nuovo canone di condotta bellico, in qualche modo un conflitto che deve essere combattuto all'interno delle menti e non più in trincea, è ovvio che tu devi esercitare dal lato una forte pressione. Quindi in questo modo è la cosiddetta riserva di violenza, intesa come violenza che tu potresti applicare ma che non applichi, ma che minacci e basti. Abbiamo visto cosa è stata la guerra fredda poi nella modernità dell'oggi, e devi capire in Italia quali sono gli altri soggetti che esercitano questo tipo di intimidazione violenta, in quel caso appunto i cartelli criminali. Allora, la prima domanda che io mi sono posto è: già nel 65, quando viene teorizzata o pensata questo tipo di nuova forma di combattere il conflitto, c'è un avvicinamento tra questi due soggetti? La prima risposta che vi posso dare è no. Perché l'estrema destra al tempo non è interessata a un avvicinamento diretto coi cartelli criminali? Perché l'estrema destra in quel momento vige una stagione di rinnovato interesse politico verso questi temi e vige anche di quella che è una forma di cosiddetta morale, che è quella stessa morale che poi è stata anche scimmiottata, ad esempio, nel processo Mafia Capitale da Massimo Carminati, no? Che in maniera forse anche ingenua davanti ai giudici diceva: io sono un fascista, non posso dedicarmi allo spaccio, non posso scendere a patti con i soggetti criminali. Eppure poi sappiamo che la storia scritta da quel procedimento è stata tutt'altro. Ecco, però in quella prima fase non ci sono i Massimo Carminati a dettare le regole all'interno dell'universo dell'estrema destra. Ci sono le cosiddette teste pensanti, quelle che hanno fondato non solo il movimento sociale, ma quelle che poi dal movimento sociale sono uscite fondando un soggetto molto importante per la storia di quel tempo, che è Ordine Nuovo, Ordine di cui Nuovo. parlato con Elia Rosati. Ecco, in quel momento quel coté di uomini che poi sono stati definiti eversori dopo, quando Ordine Nuovo da Centro Studi passa ad essere gruppo di guerriglia di clandestinità, sono i primi a rifiutare in un primo momento, e ribadisco, in un primo momento, l'approccio con la criminalità organizzata. L'estrema destra è autoreferenziale fino a quel punto, perché è convinta di farcela coi propri mezzi. Lo scoprirà solo dopo Piazza Fontana, che non ce la può fare coi propri mezzi, e lo scoprirà per un altro motivo, perché c'è un altro soggetto che invece è interessato a costruire un cartello di alleanze ben più alto, ed è Valerio Iunio Borghese, ex generale della Decima Mas e leader del Fronte Nazionale, che sceglie, guarda caso, proprio le realtà del Mezzogiorno, Sicilia e Calabria, dove iniziare ad avanzare la propria campagna proselitica. Questo avviene prima nel 69 e poi nel 70. Sappiamo benissimo cosa è stato il tentato golpe dell'Immacolata, appunto, di Borghese. E perché questo? Perché nel 70 c'è un altro evento spartiacque nei rapporti tra questi due soggetti, che sono i moti di Reggio Calabria. È la prima protesta etero diretta dall'estrema destra fino allora. Quell'estrema destra che aveva mancato, dal punto di vista sia dei movimenti che generazionale, la presenza all'interno del movimento generazionale del 68, che è qualcosa che cambierà sempre gli equilibri, per sempre gli equilibri di forza all'interno dell'estrema destra. Lo farà nel 68 e lo farà nel 77. Quindi la prima forma, diciamo, reale di avvicinamento non avviene nel 65 col Poglio, non avviene a ridosso di Piazza Fontana, ma avviene qualche mese dopo. Quindi sull'esaurimento di un'idea di autoreferenzialismo nella prima generazione dell'estrema destra, attenzione, anche qui è bene mettere i puntini sulle i, parlare di due generazioni dell'estrema destra che hanno animato la tensione pubblica in Italia. La prima costituita da sigle storiche come Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, la seconda costituita da sigle che poi hanno trovato questa forma un po' barbara di spontaneismo armato, anche se, attenzione, lo spontaneismo armato, penso ve l'avrà detto anche Cinzia Venturoli, è un termine che noi dobbiamo prendere con le pinze, perché è un termine molto artificioso, costruito ad hoc, appunto, dall'opinione pubblica italiana per spiegarsi una forma degenerativa di terrorismo di estrema destra, che è una forma proprio degenerativa per un motivo ben preciso, nel senso che è facilmente veicolabile da quelle cabine di regia di cui abbiamo parlato prima. Però, scusa, però i NAR nel loro manifesto parlavano proprio di spontaneismo armato. Certo. Cioè loro dicevano proprio spontaneismo armato come lotta, come metodo di lotta. Allora, il ragionamento che noi dobbiamo fare, ed è per questo motivo che io scelgo anche quel titolo dell'ultima pubblicazione, ovvero dare una definizione a qualcosa che in Italia non ha mai trovato una propria definizione. Noi non abbiamo una definizione per spiegare il grande rapporto tra terrorismi politici, e ce li metto tutti, e criminalità organizzata. È un paradosso, perché noi italiani non abbiamo una definizione, qualcuno ci ha provato negli anni, io ricordo una definizione guadagnata dal Partito Comunista che lo chiamava, Pio La Torre lo chiamava il partito dell'avventura, perché avevano già capito che c'erano dei fenomeni magmatici di avvicinamento tra cartelli criminali e cartelli terroristici che dovevano trovare una propria definizione. Ci hanno provato, ovviamente non ci sono riusciti, perché anche in quello diciamo il dibattito pubblico si è un po' arenato. Paradossalmente in Italia noi non ce l'abbiamo mai avuta una definizione che potesse contenere questa relazione, questo continuum di rapporti tra i due soggetti. Voi pensate però che nel 2012 se lo dà l'Unione Europea, attraverso una commissione che studia i fenomeni delle alleanze tra cartelli criminali, ovviamente disseminati in tutta Europa, e fenomeni appunto terroristici, e guarda caso utilizza proprio il riferimento del modello italiano degli anni di piombo come prima forma e primo stadio di avvicinamento tra questi due soggetti. Quello che voi vedete ad oggi, e lo guardiamo anche con i nuovi neofascismi moderni, quello che io ho definito in un lavoro che ho svolto per i sindacati, il neofascismo liquido moderno, nel neofascismo liquido moderno si vengono a riprodurre degli schemi di alleanze, di contingenze, di ibridazione di metodi, che sono degli schemi che sono stati affinati nel tempo e che trovano in qualche modo degli antesignani storici in forme di contaminazione operativa che passano per una serie di snodi in cui noi non possiamo definire il rapporto in una, diciamo, un carattere di eterogeneità al suo interno. Noi dobbiamo guardare a determinate fasi storiche e, come metodo storico ci insegna, dobbiamo capire, ve lo dice un giurista, quello del paradosso voi, dobbiamo capire quali sono gli elementi, i cosiddetti fattori di agenzia e i fattori di contesto. I fattori di agenzia sono quei fattori interni alla galassia criminale, alla galassia terroristica, i fattori di contesto sono quelli che animano il dibattito pubblico italiano. Perché noi ricordiamoci che se questa è una democrazia mancata, come diceva Krainz, c'è un motivo, c'è stata anche una volontà politica dietro. E in questo grande gioco della destabilizzazione dell'ordine pubblico in Italia, criminalità organizzata e terrorismo politico hanno svolto due ruoli di copartecipi, sicuramente. Quindi, per ritornare sul punto iniziale, quello che noi possiamo vedere effettivamente ad oggi non è altro che un percorso evolutivo del rapporto. Questa fascistizzazione dal basso che ci viene raccontata oggi, che ci viene narrata come i gruppi dell'estrema destra moderna, Casa Pound, Forza Nuova, vicini alle persone nelle periferie, non sono altro che lo specchio di che cosa? Dell'ineguatezza di questi strumenti della democrazia partecipativa moderna, coadiuvati da una crisi economico-sociale senza precedenti, in cui però non c'è né quello che Eco definiva l'urfascismo, né quello che Ferrarotti definiva il fascismo di ritorno. C'è una formula nuova. Questi fascismi riprendono dai fascismi tradizionali degli elementi, e torniamo alla questione NAR di cui tu mi chiedevi prima, che sono degli elementi stantii. La prima generazione, una generazione, quella di Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, che ha studiato, che prende Ulius Evola come riferimento, che frequenta i salotti della Roma bene, Rauti frequenta i salotti della Roma bene. Cioè sono persone che hanno un lignaggio culturale di un certo livello. I NAR non ce l'hanno questo step. I NAR arrivano in un momento, che è esattamente la periodo di transizione tra il 74 e il 77, in cui il terrorismo di prima generazione è alla gogna, perché ci sono stati dei decreti di scioglimento, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, che li hanno messi al bando, sono fuori legge per lo Stato. Lo Stato non tollera più quella dialettica da tensione, e passare a un'azione repressiva molto più forte. E anche qui bisogna aprire una parentesi. Perché si trovano bene a dialogare questi due soggetti dal 70 in poi? Perché costruiscono un gioco di coni d'ombra all'interno del quale, quando lo Stato prova a contrastare la criminalità organizzata, Cosa Nostra, 'ndrangheta, il terrorismo riemerge in superficie e colpisce. Laddove lo Stato si focalizza sul terrorismo, riemerge la criminalità organizzata. È un gioco a somma positiva, un win-win per entrambi, che diventerà ancora più evidente in un altro elemento, in un altro momento storico importante per la nostra Repubblica, la stagione dei sequestri di persona, che per loro rappresenterà la riserva economica per crescere, per diventare grandi. E quindi quel motivo per cui i NAR scrivono un manifesto, i NAR scrivono un manifesto, ma se voi sentite le deposizioni dei NAR nelle aule, Giusva Fioravanti, Valerio Fioravanti, la Mambro, i NAR non hanno nulla a che spartire con i loro antesignani, con i Freda, con i Rauti, con i Clemente Graziani, nulla dal punto di vista, con i Vinci Guerra, nulla dal punto di vista culturale. Stiamo parlando di giganti contro persone di caratura culturale molto, molto più flebile. E proprio perché erano flebili, scelgono di contaminarsi con quello che è il tessuto criminale vero e proprio, no? Celebre, non lo so, i rapporti tra Banda della Magliana e NAR a Roma, un deposito di armi comune. Non penso che Ordine Nuovo avrebbe mai accettato nulla di tutto ciò. Stiamo comunque parlando di soggetti che ambedue a un certo punto annusano l'affare con i cartelli criminali. I primi lo fanno seguendo l'utopia golpista, seguendo il fatto che non puoi mettere piede nel Mezzogiorno se non hai l'ok e l'autorizzazione di chi nel Mezzogiorno ha un forte consenso sociale e ad assoggettato un territorio, che sono i cartelli mafiosi, e dall'altra parte i cartelli mafiosi ne hanno un tornaconto, perché se loro storicamente, come vi ho detto prima, sono soggetti di sicurezza, industria della protezione, il terrorismo è il primo soggetto che semina caos e anarchia, e quindi è un gioco perfetto. Perché io mi ergo sul territorio a soggetto di protezione, tu sei soggetto di anarchia che semina terrore, terrore indiscriminato. Quindi anche qui ci troviamo specularmente in un gioco di win-win entrambi. Tu continui a fare il tuo gioco ed arricchirti, io continuo a fare il mio ed essere soggetto che assoggetto un territorio al proprio condizionamento criminale, violento e poi economico. Perché poi non dimentichiamoci mai che c'è sempre la dimensione economica per entrambi. Scusatemi, dico una cosa off topic. Quando hai citato il golpe borghese, ho pensato subito al film Vogliamo i colonnelli di Monicelli C'è un con altro Bruno bellissimo che Modugno. fare un golpe e farla franca, che è bellissimo pure, che fa un sacco ridere anche quello sul golpe borghese. So che stiamo facendo un'intervista piuttosto, cioè, piuttosto seria. Però mi è venuto in mente subito quel film che poi descriveva benissimo la realtà dei partecipanti a quel golpe, no? Ma guarda che Quindi. sono, quei film lì sono gli unici che hanno effettivamente avuto la licenza di provare a costruire, a tratteggiare una narrazione reale di quello che è avvenuto. Perché poi l'altro tema purtroppo su cui noi dobbiamo focalizzarci è il fatto che sia la storia dei cartelli criminali in Italia, sia la storia del terrorismo politico in Italia, qui ce li metto tutti, hanno purtroppo vissuto una volontaria frammentazione delle conoscenze che noi abbiamo su questi fenomeni. Se noi arriviamo nel 2025 ancora a chiederci quale è all'unisono una verità sulla storia di queste realtà, se noi abbiamo pentiti e collaboratori di giustizia che si sconfessano tra loro, evidentemente c'è stato un gioco anche delle parti che li ha tutelati nel fare questo. Celebre era, non lo so, la costante incursione di Angelo Izzo dentro qualsiasi procedimento di terrorismo politico, di criminalità organizzata a un certo punto. No, Izzo era il mostro, uno dei mostri del Circeo. Izzo a un certo punto diventa uno Certo. dei più grandi confidenti degli uomini della galassia dell'estrema destra, e tutte le volte chiamato come ad escutere come teste di cosiddetto derelato, quindi che ha saputo una cosa per interposta persona, semina zizzania e manda all'aria il lavoro della procura, che magari sta braccando un altro filone, che magari è un filone giusto. Quindi noi purtroppo abbiamo avuto questo problema. Se poi ci mettiamo anche tutto quello che è il tema riguardante la desecretazione degli atti, il versamento degli atti da parte dei tipo delle forze dell'ordine, dei servizi segreti, eccetera, eccetera, la conservazione di questi atti, perché noi abbiamo un paese con una cultura archivistica molto flebile, molto debole. Quando tu devi andare a fare ricerca, è un labirinto, una macchina. Come fai a scrivere un libro se tu non hai effettivamente il materiale per farlo, no? È in qualche modo qualcosa che allontana anche il ricercatore dal provare a farci. L'unico che lo fa è il giornalista, che ovviamente può prendersi la licenza di scrivere e fare ciò che vuole, non rendosi conto anche della responsabilità sociale che però ha su questi temi. Perché poi quando tu racconti una realtà distorta, alimenti quel complottismo che poi spinge l'italiano medio a dire: vabbè, le stragi in Italia che cosa sono state? Non capisce che tu oggi hai una democrazia così debole. Hai avuto negli ultimi 20 anni degli esecutivi che non riescono ad arrivare a fine mandato, alcuni addirittura non eletti. Non è altro che il portato di questo processo. La tua democrazia è stata sistematicamente, ve l'ho detto, dal post-costituente, minata alle fondamenta. Oggi noi abbiamo la risultante di quei processi. Non è stata tanto la Prima Repubblica a viverlo, o la crisi della Prima Repubblica del 92, lo viviamo noi oggi. Con un quadro completamente in crisi, una democrazia partecipativa che non esiste, la gente che non va più a votare, dei fenomeni che sono dei fenomeni politici anomali, pensiamo a quello che è stato, voglio dire, il Movimento 5 Stelle all'interno del parterre dei partiti tradizionali, e pensiamo anche a quello che oggi ci viene raccontato come una narrazione di sdoganamento delle nuove destre, in particolare dopo l'assalto dei Novax alla sede della CGIL nel 2021, che in realtà non è uno sdoganamento, era già in pieno. Se noi pensiamo ai volti prismatici che ha la nuova destra odierna, populismo, sovranismo, identitarismo, rossobrunismo, c'è di tutto. È trasversale a tutto. Negazionismo, Esatto. negazionismo. È trasversale a tutto. E allora lì qual è il problema? Il problema è che dall'altra parte non si è produttivi di politiche di sicurezza, non si riesce a produrre una risposta, si va solo dietro, lì si va dietro. Andava prima dietro a Salvini e oggi andiamo dietro alla Meloni. Questa è la verità. Mo sono arrivato sul politico, perdonatemi, ogni tanto mi No, parte. no, no, no, ma è così, è così. Giuliano, senti, ma tu diciamo hai già anticipato qualcosa, però andando a, diciamo, anche a storicizzare i fatti avvenuti, questi rapporti tra clan mafiosi e gruppi eversivi di estrema destra, che vanno dal 1965 al 1984, dico questa data perché poi ne abbiamo parlato. Anche telefonicamente, quando ci siamo sentiti, quali tragici eventi ha prodotto questa, infausta alleanza? Ah, come vi ho detto prima, se la prima risposta ve l'ho già data, nel senso che in una prima fase c'è questo annusarsi in maniera reciproca, ma poi il fascismo vuole essere autoreferenziale anche per una sua finta morale, no? Quella di non volersi contaminare con chi in realtà criminale lo è veramente, salvo poi scoprirsi più criminali probabilmente dei criminali che fino allora avevano calcato quelle che sono le aule di giustizia del tempo. Noi possiamo individuare sicuramente diciamo, nell'anticamera del 1969-1970 il primo momento di avvicinamento e poi di convergenza tra questi due soggetti. Utilizzo qui un termine che è quello di convergenza, che è stato già utilizzato da tanti studiosi, ma che in realtà solo in parte descrive quello che è la natura del connubio, del rapporto. Abbiamo fenomeni di convergenza che poi arrivano fino a degenerare, come dicevi tu giustamente, nell'84 o anche nel 92, fino a fenomeni di vera e propria ibridazione dei metodi, l'ho definito io. Perché anche lì ci sono l'applicazione di alcuni tipi di strategie che non sono proprie dell'uno o dell'altro soggetto. Ora ci arriverò. Cerchiamo di tenere il punto nelle tappe, diciamo, storiche. Se Piazza Fontana non ha nulla a che spartire con questo presunto avvicinamento tra cartelli criminali e terrorismo di estrema destra, perché poi la matrice, voglio dire, ordinovista la si scopre dopo, all'inizio erano gli anarchici ad essere imputati, poi si scoprirà con le inchieste padovane, che in realtà è il gruppo di Freda e Ventura a macchiarsi, voglio dire, dell'esecutorietà dell'atto. Dall'altra parte, quello che avviene prima con la campagna di Valerio Iuno Borghese al sud. Ricordiamo personaggio molto importante sia per il suo curriculum nella decima MAS, ma anche perché è uno dei più grandi fautori del tentativo di golpe. L'Italia ha una collocazione strategica all'interno della cintola mediterranea in quegli anni, dove noi abbiamo già dei regimi autoritari importanti, abbiamo Francisco Franco in Spagna, abbiamo i colonnelli greci in Grecia, abbiamo Salazar in Portogallo. L'Italia deve rimanere, perché rappresenta in qualche modo una sorta di cintola edaltipica tra mondo occidentale e Unione Sovietica, rispettando gli accordi di Yalta, deve rimanere sotto l'influenza statunitense. Il problema è che è un partito comunista molto forte, sebbene il Partito Comunista Italiano sia un partito comunista molto anomalo, molto anche in rotta con quelli che sono le indicazioni diktat di Mosca, no? Lo sappiamo. Ecco, in questo scenario assurdo diventa l'utopia golpista per l'estrema destra un tarlo che finirà praticamente poi quasi per autodistruggerla, perché sappiamo benissimo che nonostante Borghese nel 69 sia presente a Reggio Calabria, noi abbiamo degli atti importanti, un procedimento in particolare, che è il procedimento Zappia più altri, che ci racconta che quell'anno nel 69 l'Andrangheta, che solitamente fa il proprio summit annuale al santuario di Polsi, quell'anno sceglie di spostarlo, di svolgerlo, è un'anomalia nell'anomalia, lo svolge sull'Aspromonte, e decide di svolgerlo sull'Aspromonte proprio perché in quei giorni a Reggio Calabria, nei dintorni della zona, sono previsti una serie di convegni proprio del Fronte Nazionale di Borghese. Borghese che non è solo, perché è accompagnato da altri due soggetti molto conosciuti nello scenario del neofascismo del tempo, che sono Stefano Delle Chiaie e Pierluigi Concutelli, non due nomi a caso. Accompagnati da questi soggetti, quindi, diciamo che gli atti di polizia sono anomali, vengono identificati durante questo summit solo i cosiddetti pesci piccoli, le teste pensanti non vengono identificate, però tutti i pesci piccoli, tutti i collaboratori di giustizia poi intervistati, interrogati anche in sede processuale, all'unisono affermeranno che in quei giorni, durante quel summit si svolge lì e durante quel summit è prevista la presenza di questi uomini dell'estrema destra. La domanda è perché? Cosa deve avvenire in Calabria nel 69? In primis il golpe Borghese non è pensato per svolgersi nel 70, doveva avvenire nel 69, e questo ce lo dicono tutti i collaboratori dell'estrema destra, ce lo dicono uomini di Cosa Nostra, ce lo dicono uomini di 'Ndrangheta. Quindi Borghese sta reclutando in quei giorni, ha prenotato una serie di piazze perché è il leader del Fronte Nazionale, che a tutti gli effetti è uno dei tanti soggetti para istituzionali che animano l'area dell'estrema destra oltre l'MSI in quegli anni. E lo fa anche perché l'Andrangheta al suo interno ha delle componenti che sono un po' in rotta con le componenti storiche. Nel senso, se l'Andrangheta fino ad allora è una criminalità agropastorale, perché a comandare sono i Tripodo, i Macri, che hanno, diciamo, questo modus operandi per cui sotto campagna elettorale tu finanzi un po' tutti, dal Partito Socialista fino ai comunisti, fino alla DC, fino ai fascisti. Devi tenere tante pance piene. I giovani rampolli dell'Andrangheta invece non la pensano così, e non solo sono uomini di estrema destra, perché lo sono i De Stefano, sono gli Arcoti, lo sono i Condello, ma perché hanno studiato in un'università, che è l'Università di Messina, dove si sta consumando un esperimento politico che lega uomini dell'estrema destra a uomini di criminalità organizzata. Un altro uomo con duplice passaporto, oltre a Bellini, che noi stiamo celebrando in Emilia Romagna, è Rosario Pio Cattafi, che è uomo, storicamente, di Ordine Nuovo, e che poi diventa il boss di Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi doppio passaporto per questo personaggio. Ecco, l'Università di Messina diventa, come ho detto prima, un grande laboratorio politico dove terrorismo di estrema destra e criminalità organizzata si annusa e si incontrano. Si spartiscono gli appalti per le mense, per gli alloggi, ci sono degli atti di polizia che fanno dei raid nelle residenze, negli alloggi occupati, dove vengono trovati nelle stesse stanze criminali organizzati e esponenti di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale, con armi, quindi, diciamo, in una dinamica di piena intimidazione nella zona, e che poi portano questo, passatemi il termine, know-how, su un binario successivo, su un gradino successivo, che è quello appunto del cercare di fare la scalata alla cosiddetta 'Ndrangheta agropastorale. Ci riusciranno i De Stefano? Assolutamente sì. E utilizzeranno prima la presenza di Borghese e il cosiddetto apporto che questi gruppi danno a Borghese, o vorrebbero dare, visto che poi il golpe dell'Immacolata, insomma, fa la fine che si fa, e dall'altra parte continueranno questo sodalizio più avanti, quando con la stagione dei sequestri di persona sarà proprio la Calabria una delle basi operative che permetterà a uomini dell'estrema destra e a uomini di criminalità organizzata di costruire le cosiddette batterie miste. Quindi se 69 e 70, con i modi di Reggio Calabria in particolare, no, celebre la figura di Ciccio Franco che sulle barricate a Izza i boia chi molla, no? Anche quello, stiamo parlando di un sindacalista della CISL, quindi un uomo della destra istituzionale, definiamola così, diventerà poi anche deputato dell'MSI dopo Ciccio Franco, che guida una protesta anomala perché nasce, voglio dire, sul cavillo di Reggio Capoluogo, quando invece viene nominato capoluogo Catanzaro e Reggio insorge, lì dove, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, una protesta popolare viene completamente egemonizzata dall'estrema destra. Perché? Perché l'estrema destra già era presente negli anni prima, in quella zona, e coglie l'occasione per diventare e farsi grande. quello diventerà l'altro laboratorio politico, da cui in qualche modo ci sarà lo scavallamento dalla 'ndrangheta agropastorale a quella urbana, come volevano i De Stefano, e dall'altra parte ne uscirà fortificata in maniera smisurata Avanguardia Nazionale di Stefano Nelle Chiaie, che fino ad allora rappresenta un po' l'alter ego di Ordine Nuovo di Graziani, del primo Ordine Nuovo di Rauti, e che poi da quel momento diventerà una vera e propria agenzia di servizi, Avanguardia Nazionale. Questo per arrivare dove? A che punto? Questo per arrivare, senza tirarla troppo per le lunghe, a un primo fenomeno di convergenza piena che invece avrà luogo dal 72 in poi con i sequestri di persona. Perché dico questo? Perché, come vi ho detto prima, lo schema di analisi deve essere fattori di agenzia, fattori di contesto. Una volta che si iniziano a scoprire le matrici delle stragi, vi ricordo che noi abbiamo nel 72 Peteano, nel 74 abbiamo quattro stragi, abbiamo Italicus, Piazza della Loggia e due tentate, che sono Silvi Marina e Vagliano, e che quindi la matrice delle stragi inizia a scoprirsi essere nera. Come vi ho detto prima, lo Stato reagisce con i decreti di scioglimento. Viene messa al bando primo Ordine Nuovo e poi Avanguardia Nazionale, e l'estrema destra è costretta per necessità a inabissarsi. E una volta che tu ti inabissi, ma hai fatto proselitismo, hai delle basi a cui rispondere, perché la struttura dell'estrema destra, delle sigle dell'estrema destra, non è quella poi successiva dei NAR, non è ad arcipelago, non sono tante galassie, non abbiamo tanti confini molto labili dove tu oggi sei uno, domani vai da Costruiamo l'Azione, dopodomani diventi terza posizione. Quella dei primi, della prima generazione estrema destra è gerarchizzata. Tu devi rispondere alla testa di comando, non puoi ignorare il comando del Delle Chiaie o del Graziani di turno. E proprio perché è costruita così, una volta che tu obblighi i loro capostipiti a diventare latitanti, e anche in qui troviamo covi congiunti tra latitanti di estrema destra, tipo Freda, e appunto De Stefano a Roma, trovati nello stesso covo, nella stessa latitanza, è chiaro che inneschi un meccanismo per cui quando l'estrema destra deve riorganizzarsi, deve ripensarsi, e questo viene affidato a Concutelli col progetto scellerato di Ordine Nero, dove andranno ad ammazzare prima Vittorio Occorzio, che è il primo magistrato che si rende conto che queste queste di persona c'è un'unica cabina di regia, dove ci sono neri da una parte e criminali insieme. Dall'altra parte, come vi stavo dicendo, scegli a quel punto che cosa? Di costruire delle batterie miste. Perché? Perché la criminalità organizzata ha bisogno di fare moneta, da reinvestire in altri mercati. Senza le batterie miste dei sequestri di persone, l'Andrangheta non sarebbe diventato il colosso egemone del narcotraffico che oggi, perché accumula capitali utilizzando un territorio selvaggio come il suo come base operativa per la filiera del sequestro. Il sequestro non è un atto che viene compiuto da una persona o da più persone, viene parcellizzato nei rischi. Io sono il basista, tu sei quello che va a prendere, che compie il sequestro, tu sei quello che tiene il sequestrato, tu sei quello che chiede il riscatto. In questo modo parcellizziamo il rischio, perché se prendono me mi contestano un capo, o comunque mi contestano un'azione, se prendono te un'altra, e dall'altra parte spartiamo il provente. Una volta che io spartisco il provente, io, terrorismo nero, ho nuova linfa economica per riorganizzarmi, tu, criminalità organizzata, nuova linfa per nuovi affari. Nuovo affare qual è in quegli anni? L'eroina prima, sarà la cocaina poi. Questo renderà grandi i cartelli, in particolare i cartelli di 'Ndrangheta, ma c'è anche una forte componente di Cosa Nostra dentro i sequestri. E l'altro scellerato, diciamo, elemento che congiunge questi due universi fino a una convergenza piena, che avviene appunto così, di persona, sapete qual è? Il soggiorno obbligato. Questo istituto scellerato, costruito dal pensiero statalista, che è convinto che rompendo la catena di comando e prendendo un boss e spedendolo dall'altra parte d'Italia, tu rompi la catena. Peccato che se quel boss tu lo prendi, come ci ha ad esempio testimoniato il processo Emilia qui in Emilia Romagna, se tu prendi un boss di 'Ndrangheta, lo mandi a Reggio Emilia o a Brescello, ma a Reggio Emilia e a Brescello non c'è quella percezione, quel sentir comune di quell'atteggiamento, quel modo di fare, possa diventare un domani ingestibile nella sua tossicità sociale, e tu lo lasci fare, e dietro a lui arriva una corte di soggetti che si trasferisce appresso, tu non hai fatto che trapiantare il seme criminale da lì e lo metti in un'oasi felice. E se tu lo metti in un'oasi felice che non ha gli strumenti per poterlo combattere, ma che anzi, come è stato in Emilia Romagna, che è regione coraggiosa ma anche molto orgogliosa, e che ha risposto dicendo: ma noi abbiamo combattuto il fascismo, siamo partigiani, figuratevi criminali, e poi si è scoperta invece terra di mafia, contaminata fino all'ultimo capello, capite che tipo di sistema si va ad innescare, che detonatore tu hai innescato. Il soggiorno obbligato ha contribuito a questo avvicinamento, perché erano proprio i soggiornanti obbligati a fare da supporto logistico, da basisti in queste filiere. Se noi studiamo i casi più conclamati nel 74 di sequestri di persona, tra il 74 e il 76, quando Cucutelli deve fare i soldi con Ordine Nero, deve reinventarsi l'area neofascista, e quando tanti gruppi criminali devono fare fortuna, noi troviamo una brillante relazione sui sequestri di persona scritta dal vice questore di Marsala, Giuseppe Peri, che ricostruisce quattro sequestri di persona avuti luogo tra Puglia, Sicilia, Calabria e Lombardia, e dice: attenzione, la matrice è la stessa, sono batterie miste di terroristi neri e criminalità organizzata. L'altra peculiarità di questo importante atto giudiziario, sapete qual è? Che c'è un sequestro dei quattro che avviene in Puglia, viene sequestrato un banchiere, Mariano, che non viene compiuto dal terrorismo di estrema destra extraparlamentare di Ordine Nuovo Avanguardia, ma dal segretario della sezione di Brindisi dell'MSI, da Martinesi. Quindi noi abbiamo per la prima volta una destra istituzionale che si macchia di un illecito legato a criminalità organizzata. Quindi qui cade la maschera. Nel 74 abbiamo la convergenza piena, cosa che poi successivamente prenderà un'altra piega, perché una volta che i legami sono quelli, una volta che il know-how comune è quello, una volta che tu criminale, guardi il modello terroristico come un modello di efficienza perché le strutture sono più flessibili delle tue, meno gerarchizzate e quindi difficilmente braccabili dall'autorità. Quando tu terrorista guardi i criminali e dici i loro modi di azione, i modus operandi, che saranno quelli che poi porteranno Rognoni alla Torre a scrivere il 416 bis, la soluzione dell'incubo di stampo mafioso, che poggia proprio sul metodo la sua peculiarità, il suo punto di forza, è chiaro che se tu guardi, si guardano entrambi come modelli di efficienza, arriviamo a un certo punto, a ridosso di una nuova stagione politica, che tu, terrorismo, ti sei reinventato e sei diventato spontaneismo armato, perché hai passato i tuoi strumenti a dei giovani molto più ambiziosi, ma anche molto più efferati, che non capiscono più quella grande impalcatura ideologica di Evola, non la vogliono capire. E quindi quando arriva il Giuseppucci della Malena di turno e va dal Carminato del Fioravanti a dirgli: io ti riciclo i proventi delle tue rapine, che ti servono per finanziare la tua attività politica, tu però vai e mi ammazzi Teodoro Pugliese con tabaccaio che ha tirato due schiaffi in carcere a De Pedis. E quelli vanno e lo fanno, a volto scoperto in pieno giorno. Tu hai costruito un mostro, un Giano Bifronte, che dal punto di vista dell'azione di contrasto delle procure diventa difficilissimo scardinare. Ed è questo che purtroppo avviene. Però se ci hanno raccontato che la storia riguarda la banda della Magliana, i NAR, come diceva prima Salvatore, la storia non riguarda solo la dinamica romana, va ben oltre. E a Napoli hanno avuto uno dei casi più ambigui, più difficili dal punto di vista anche giudiziario da raccontare, che è quella della strage del Rapido 904, dove noi, in un momento in cui sembrava che il terrorismo fosse finito, dopo Bologna, il terrorismo 81-82, poi sembra finito dopo, perché ha tirato troppo la corda. Sono di nuovo messi al bando, sono di nuovo braccati, sono di nuovo latitanti, eppure nell'84, a ridosso di Natale, nello stesso punto in cui era scoppiato 10 anni prima l'Italicus, un treno esplode nella Grande Galleria dell'Appennino, facendo decine e decine di morti, civili anche qui inermi, eppure il terrorismo politico, ripeto, ormai ha esaurito la propria ragion d'essere. Quindi di chi è la cabina di regia? Si scoprirà solo dopo, attraverso le inchieste della Procura di Vigna di Firenze, della Procura di Napoli e di quella di Bologna, che pensa subito ai fascisti, ovviamente, perché i portati storici la inducono, Nunziata all'epoca dirigeva la procura, lo inducono a pensare a quello. Scopriranno invece che la matrice è una matrice, viene definita fasci mafiosa all'interno del processo, perché il mandante è Pippo Calò, che è uomo di Cosa Nostra, eppure la reggenza di quell'operazione vige sul supporto di un clan di Camorra della zona d'uomo, che è di quello di Peppe Misso, anche se Misso scriverà questo libro di autodifesa, che sono i leoni di marmo, in cui dirà di non aver mai avuto nulla a che fare. E dall'altra parte la simbologia della scelta del luogo, della funzione battesimale dell'esplosivo fatto scoppiare in quel modo, fa sì che Cosa Nostra indirettamente stia lanciando un messaggio che poi capiremo solo nel 92, quando qualcuno utilizzerà una strategia terroristica, quella dello stragismo, per far saltare in aria prima un pezzo di autostrada a Capaci e dopo un pezzo di città per uccidere Borsellino. Ecco, pensare che l'artificiere di quella strage di Capace, ad esempio, è Rampulla, che anche lui è un ex ordinovista, ci dà la cifra della situazione e la cifra del problema che ne abbiamo davanti. Noi abbiamo un problema di continuità. Perché l'altra domanda che dobbiamo porci, e che molti non sono mai posti, è: ma esaurita la stagione degli anni di piombo, chi è accampato di terrorismo politico, difeso da pezzi anche deviati, rimarchiamolo che sono deviati, perché c'è anche chi faceva il proprio lavoro e c'è morto facendo il proprio lavoro, dello Stato, dopo, come ha continuato a vivere, come ha legittimato il proprio peso politico sul territorio? Beh, anche quello che stava emergendo con Mafia Capitale ci dava una risposta, no? Carminati, a che titolo era il soggetto di intermediazione criminale tra boss efferati di Camorra come Michele Senese, criminalità etnica come quella di Casamonica, o semplici criminali di strada? Chi le ha data quella signoria criminale da tenere su la realtà più complessa che noi abbiamo in Italia, che è Roma, la metropoli di Roma? È ovvio che se la sia guadagnata in qualche modo. O come fa Paolo Bellini ad essere prima uomo di avanguardia nazionale, definito l'aviere, poi diventare killer di 'Ndrangheta di Vasapollo? Poi diventare un soggetto che arriva all'orecchio di Joe e gli dice: attenzione, se voi volete fare i forti con lo Stato, attaccate il patrimonio artistico, mettete le bombe a Gergofili. Chi è quest'uomo? Tutti questi personaggi con un doppio passaporto mi hanno portato a credere, sin da quando ho scritto la prima pubblicazione, che qui la mafia non esiste, e parlavo ovviamente di Massimo Carminati in quel caso, il processo Mafia Capitale era ancora in corso, a credere che i contenitori associativi che noi conosciamo ad oggi, sia quelli di criminalità organizzata tradizionale, insediamento tradizionale, sia quelli terroristici, avessero dei confini molto più laschi di quelli che ci sono stati raccontati, molto più flebili, che hanno consentito a tanti soggetti di muoversi indistintamente dalla tensione politica del tempo, da uno all'altro contenitore, senza non dover avere l'obbligo di andare a raccontare a qualcuno se erano terroristi veri o criminali veri. Allora, nella mia legittimità di ricercatore, che fa il suo lavoro ovviamente sempre con rispetto della fonte, tante volte mi sono chiesto se il soggetto X o Y fosse realmente un criminale o un mafioso, o fosse, lo fosse tutti e due già dall'inizio, perché sono troppe le figure di continuità che animano questo libro. E noi arriviamo a un certo punto in cui dobbiamo essere anche in grado a dire che per un pezzo di storia repubblicana questi due soggetti, criminalità organizzata e terrorismo di estrema destra, hanno vissuto di convergenza. A me interessava fare i soldi perché ero bandito dallo Stato, tu dovevi aprire nuovi mercati, ci siamo trovati, ci siamo annusati, ci siamo piaciuti, ambedue avevamo un interesse. Dopo avviene qualcosa di diverso, avviene che io mutuo strumenti tuoi, lo stragismo è un codice di condotta che non è proprio della criminalità di stampo mafioso. Cosa nostra, salvo la strage di Ciampulli, che si consuma in un conflitto tra i Greco e la Barbera sulla prima guerra di mafia, per codice di condotta non lo vuole fare il bimbo vittima innocente, la donna vittima innocente, perché passa in quel momento quando scoppia una bomba. Perché a Capaci sceglie di farla invece? Cos'è cambiato all'interno del codice di condotta di Cosa Nostra? E perché utilizzi una strategia che sai benissimo che non è tua? Perché Calò deve mettere una bomba nell'84? Cosa c'è nell'84 di così importante? Ve lo dico io. Chi viene stradato nell'84? Buscetta. Perfetto. E quindi con l'operazione San Michele tu hai tutto l'interesse a prendere la telecamera italiana che guardava Buscetta che scendeva una scaletta e a girarla altrove dicendo: attenzione, ritorno al terrorismo politico. E utilizzi dei personaggi, che sono dei personaggi ancora che ci devono risposte, come Peppe Misso, che per quanto poi sia stato assolto per la strage, è condannato per detenzione illecita di materiale esplodente. Io ve l'ho detto, la giurisprudenza, ve lo dico da giurista, spesso, perché non è mirata l'accertamento della verità, ma è mirata un accertamento diverso, in sede dibattimentale, ci racconta delle storie che sono un po' anomale. Ci racconta una storia in cui lui ed Abatangelo, deputati missini, vengono assolti per strage ma condannati per detenzione di materiale esplodente. Ma sto materiale esplodente, a che pro ce l'avessero, non ce l'hanno mai raccontato. E quando tu ammetti che Abatangelo e Misso si scambiano il materiale esplodente con uomini di Cosa Nostra, ma non mi spieghi perché l'hanno scambiato, tu hai raccontato una mezza verità o una mezza bugia. E io da cittadino ho tutta la volontà per poter ricostruire questa storia, cercando di dare un nuovo volto e anche una nuova dignità alla narrazione pubblica che tu stai costruendo o decostruendo, perché sono narrazioni pubbliche che sono state decostruite apposta. su questi temi, per renderle frammentarie tra loro. Io sono una di quelle persone, qui chiudo, che ha cara la figura di Vittorio Occorsio. Vittorio Occorsio era un magistrato, forse passato un po' in sordina come figura, perché poi i grandi magistrati vittima di cartelli criminali del terrorismo sono quelli degli anni 80, degli anni 90. Vittorio Occorsio, secondo me, paga nel 10 luglio del 76 la vita, viene ucciso da Concutelli a raffiche di mitra in via Mogadiscio a Roma, perché è la prima persona che capisce attraverso il super pool dei sequestri a Roma qual è il grande campo organizzativo in cui vivono insieme e in simbiosi terroristi politici e criminali organizzati. Lo capisce e va eliminato per quello. Perché capirlo nel 76 è diverso da capirlo nel 92. E quindi avremmo probabilmente potuto scrivere una storia repubblicana diversa se avessimo fermato questo fenomeno tempo addietro. Invece abbiamo avuto difficoltà dal punto di vista dell'azione di contrasto, le procure hanno avuto difficoltà nel capire quali fossero le matrici di tanti eventi, si è perso tempo, si è lasciato tempo a fenomeni altamente globalizzati come terrorismo politico e criminalità di riorganizzarsi, di diventare più sotterranei, ed oggi stiamo toccando con mano qual è il portato di quelle stagioni. Il neofascismo liquido l'ho definito io, no? Un neofascismo che arriva ovunque, arriva dalle borgate fino alle curve del grande tifo. Arriva a giustificare la propria ragion d'essere come agenzia anche qui della protezione, ma anche come soggetto di supporto, no? Per me sono stati aberranti gli scenari che sono profilati sotto Covid, quando ad esempio una realtà come quella di Ostia era completamente in mano a Casa Pound, che era diventato paradossalmente anche lì soggetto istituzionale. Ha eletto due consiglieri nel 2019 Casa Pound alle elezioni ad Ostia. Senti, io prima di farti la prossima domanda volevo ritornare su una cosa che hai detto prima, cioè nel senso, tu hai parlato di una prima generazione di terrorismo nero e una seconda generazione, la prima ideologizzata, la seconda no, fondamentalmente faccio molto spicciola. Se la prima generazione puntava al golpe, la seconda generazione a che cosa puntava? Ecco, qui mi hai fatto una domanda bellissima, inconsciamente bellissima. Nel senso, quando io ho dovuto costruire, perché mi si chiedeva un'argomentazione che fosse scientifica, perché noi in università, penso ve l'abbia detto anche Elia Rosati, che anche lui vive l'università e tutte le dinamiche molto ingessate dell'università, richiede, quando tu sei un ricercatore e ti approcci a questi temi un po' vischiosi, che tu lo faccia con rigore scientifico. Allora, quando mi si è detto che io dovevo costruire una narrazione di questi rapporti con rigore scientifico, io da giurista ovviamente padroneggiavo bene la scienza giuridica, l'atto processuale, benino quella storica, perché sono un grande appassionato di storia, come si capisce, malissimo delle altre scienze che potessero fungere da raccordo. E quindi mi sono approcciato alla sociologia, in particolare alla sociologia delle organizzazioni, che invece è uno strumento che viene utilizzato e abusato tantissimo negli studi, ad esempio, nordamericani sul contrasto al crimine organizzato. Per loro crimine organizzato non vuol dire solo i cartelli criminali, vuol dire le bande degli Hells Angels con le Harley, vuol dire di tutto. Però loro, attraverso l'applicazione di queste scienze, riescono a spiegare come si muovono questi soggetti su un network, sul reticolato. Quando voi vedete, ad esempio, le intercettazioni telefoniche, tante volte vengono svolte attraverso un meccanismo che viene definito social network analysis. Cioè si prende un soggetto, lo si intercetta e poi da quel soggetto si vedono tutti i legami che esso sviluppa. E capisci se è un boss o un pesce piccolo. Perché se ha tanti collegamenti vuol dire una cosa, se ne ha pochi vuol dire un'altra, se viene tutelato da tutti i soggetti con cui interagisce intorno ne vuol dire un'altra. Utilizzando questo strumento, la sociologia delle organizzazioni, sono riuscito a spiegare perché attraverso dei legami che si sviluppano in maniera forte nel terrorismo di prima generazione e in maniera lasca o debole in quello di seconda generazione, ci fossero ad animare questa interazione tra estrema destra e criminalità organizzata delle cabine di regia diverse. Mi spiego. Se la prima è quella del golpismo, dove il borghese di turno o Ordine Nuovo di turno o il delle chiaie di turno è ossessionato dal fatto che in Italia non si riesca a fare quello che fanno in Grecia i colonnelli, Francisco Franco in Spagna, Salazar in Portogallo, quello che avviene in Sud America, pensiamo a cosa avviene ad esempio appunto con Allende e Pinochet, e in Italia non lo riesce a fare, sebbene ci sia una parte dell'establishment americano che ti spinge e ti dice si può fare fino a un certo punto, ovvero finché non scivola Nixon con Watergate, poi dopo gli americani sono più restii, meglio la Democrazia Cristiana che queste soluzioni, quel ragionamento che viene fatto a un certo punto. E tu hai come cabina di regia il golpe, ma il golpe provi prima De Lorenzo e non va. Poi ci provi con Borghese e non va. Poi ci provi nel 74 con Edgardo Sogno e non va. Issi bandiera bianca, e guarda caso la bandiera bianca la issi proprio in quel momento in cui la prima generazione arriva al suo tramonto. Perché il 74 è il tramonto definitivo della prima generazione. I convegni in cui viene fondato Ordine Nero, in cui si organizza l'estrema destra, si dà il mandato a Concutelli, che diventa il soldato politico dell'estrema destra, tant'è che Concutelli è uno dei pochi soggetti che viene idolatrato sia dal terrorismo di prima generazione che da quello di seconda generazione. I NAR fanno i viaggi in Sicilia, conoscono Mangiameli, perché il loro obiettivo è far evadere Concutelli da Lucio Ardone. Però i NAR che Evola non hanno letto hanno il mito di Concutelli e non quello di Evola, per dirvi. Quando la tua cabina di regia nella prima stagione del terrorismo è il golpe, metti le bombe nelle piazze. Quando il golpe non lo è più, e finisce nel 74 questa chimera, le bombe, a parte Bologna, non le metti più. Le rimetterai per altri obiettivi, come nell'84, vi ho spiegato prima. Ma allora, la cabina di regia nella seconda fase qual è? Nel 74 diventa pregnante, importante, centrale, dentro questo grande network, un altro soggetto, che non ha un piano autoritario, per minare la Repubblica, ma scrive il piano di rinascita democratica, all'interno del quale dà mandato Licio Gelli ad alcuni soggetti di collegare, di fare da pontiere tra i giovani rampolli dell'estrema destra che sono rimasti in auge, che diventeranno importanti successivamente, e gli uomini invece dei cartelli criminali. Pensiamo a un soggetto che io, di cui io ho trovato tanti atti di indagine in archivio, l'operazione Mangusta ai danni di Aldo Semerari. Aldo Semerari è uno psichiatra che non ha mai nascosto le proprie ideologie fasciste, e colui che farà la prima perizia su Pasolini cercando di incriminare Pasolini per delitti che riguardano pedopornografia e altro, è un uomo che fa le perizie false ai clan della Magliana, ai clan di Camorra, ci pagherà la vita per questo, perché farà le perizie false a Raffaele Cutolo, ma la farà anche ad Ammaturo, in un momento in quale nuova camorra organizzata e nuova famiglia d'Alfieri si stanno ammazzando. Infatti verrà trovato sotto al castello di Ottaviano, in testa mozzata. Testa mozzata dietro. Rituale perfettamente criminale che taccia l'infame. Ecco, Aldo Semerari, ad Aldo Semerari è un altro uomo. A De Felice viene dato mandato di fare dei raduni dentro le proprie ville in cui mettono al tavolo terroristi neri e criminali organizzati. Questi raduni vengono raccontati da collaboratori di giustizia della galassia dell'estrema destra della criminalità organizzata, e Calore, Aleandri, quindi estrema destra, di seconda generazione, Abbatino, i collaboratori della Magliana, ci raccontano di queste riunioni. A che pro? È cambiata la cabina di regia. Quel network per funzionare ha sempre avuto bisogno di una cabina di regia. La prima era una serie di poteri forti che spingevano verso il golpismo. Tramontata quell'era, non si è fermato il grande campo federalista o sovversivo italiano. Anzi, si è reinventato in una maniera più soft forse, ma anche più brutale, perché oggi quando scopriamo che Gelli finanzia e paga per la strage di Bologna, ti rendi conto di quanto è diabolica una persona che sceglie di fare morti indiscriminati in una stazione. Per cosa? Per evitare che il comunismo arrivi al governo in un paese dove già di suo il comunismo, per posizioni che ha preso rispetto a Mosca, difficilmente ci arriverà. Ci aveva pensato Moro, guarda caso Moro viene estromesso dal campo, ci ha pensato in Sicilia Mattarella, guarda caso Mattarella nell'80 viene estromesso dal campo. Quindi lo sa bene il Partito Comunista che uno più uno fa due, e che quindi non hai speranze di costruire un grande campo largo. Eppure il piano di rinascita democratica è un piano che rimane in auge centrale dentro questo network e che utilizza le pedine della criminalità organizzata, che sono forse un po' più difficili da muovere ma anche un po' più affidabili. Pensiamo a quelle, voglio dire, che sono i rapporti che ruotano intorno a Calò, che è latitante a Roma, che fa affari con Balducci, con Ortolani, con Diotallevi, che da una mano alla nascita della banda della Magliana, e poi con quelli del terrorismo. E quando vi ho detto che il terrorismo di seconda generazione è particolare, Non lo dico a caso, perché sono schegge impazzite. E questo lo sa la cabina di regia, che sono schegge impazzite. Sono soggetti che non hanno problemi, come vi ho detto, a sparare a un tabaccaio perché glielo chiede la Magliana come dazio per riciclare i propri proventi, che non hanno problemi a mettere una bomba in una stazione, ma sono anche gli stessi che si macchiano una serie di omicidi che li portano probabilmente a un esperimento più celere. Pensiamo all'omicidio Mangiameli. Sono quelli che vengono presi al valico. Carminati viene sparato al valico con la Svizzera mentre in macchina con Magnetta, ma non è che lo aspettano a caso, lo aspettano perché ha tantissimi collaboratori di giustizia. Il terrorismo di prima generazione, i collaboratori di giustizia non ce li ha, e c'è un motivo per cui non ce li ha: perché quello di seconda generazione è più veicolabile, è più infiltrabile dall'interno, e questo da un lato serve al Lab, alla loggia massonica P2, a Semerari, a De Felice. Dall'altra parte non li rende però soggetti di fiducia. E quindi alla fine, dentro questa dinamica, l'unico soggetto affidabile, guarda caso, quale rimarrà? Intermediario criminale. E infatti, con le leggi dell'84 prima del 92, lancerà la propria OPA contro un nuovo governo politico italiano. Perché se nell'84 sta cercando di smuovere dall'interno la Democrazia Cristiana perché hanno preso Buscetta, nel 92 sta franando la Prima Repubblica, lui lo sa. E con quell'operazione di Capaci e D'Amelio preme il tasto reset e si ripresenta 6 mesi dopo con le leghe meridionali, con una nuova retorica politica in cui è già parte integrante. Perché dentro la storia della Seconda Repubblica, Cosa Nostra è parte integrante. E Cosa Nostra, non a caso, anche sulla dinamica campana, fa delle scelte di campo non da poco. Sposa i casalesi piuttosto che le camorre della città. Perché? Perché le camorre della città sono schegge impazzite, hanno un livello di conflittualismo tra loro che non aiuta gli affari. Scegliamo quelle del casertano, sono più affidabili, sono meno conflittuali. E avviene anche questo nell'andrangheta, perché l'andrangheta, come vi ho detto, subirà un percorso anche di ammodernamento che senza De Stefano e Condella non potrà mai avere piede. E quindi le pedine sono tutte disseminate su un unico scacchiere e funzionano, perché nello scacchiere c'è sempre una cabina di regia, e laddove viene meno, come il golpismo, viene meno Nixon, ce n'è sempre un'altra pronta. Io non credo, ad esempio, che sia anomalo il fatto che, ad esempio, sulla Piazza Romana, dove tu prima, fino al 76, ai marsigliesi, che sono anche loro una criminalità politica, perché i marsigliesi hanno una storia criminale che arriva oltre Marsiglia. Molti di loro hanno fatto parte dell'OAS, dell'Organisation d'Armée Secrète, che combatte il conflitto franco-algerino. Sono quelli che volevano fare la penna a De Gaulle, quando De Gaulle dice: va bene, l'Algeria diventi indipendente, non ci interessa. Si sentono traditi dallo Stato. Quelli sono una criminalità politica che va bene fino a un certo punto. Poi muore dal nulla in 6 mesi, braccata da collaboratori, inchieste. Nel 76, neppure 8 mesi dopo, sequestro di Luca Grazioli, Dante della Rovere, nasce la Magliana. I percorsi di formazione degli agglomerati criminali su un territorio, in particolare complesso come Roma, richiedono decenni di insediamenti. Non nascono così. Quello è un laboratorio criminale costruito in provetta, quello della Magliana, perché prendi 3 gruppi criminali e li aggreghi. Quindi anche la narrazione della Magliana, che è stata fatta come cartello unitario, è menzognera. Non racconta la realtà. Tu vai a parlare con un criminale della Magliana, uno dei tanti che ha fatto parte, ti racconterà la sua storia, la sua batteria. E ti racconterà che ha conosciuto Tizio perché hanno fatto l'assalto a Portavalori e l'ha conosciuto, perché hanno fatto il sequestro e l'ha conosciuto. Però poi si sono collocati tutti su quello scacchiere criminale, per interessi propri, per interessi del gruppo, e non ne sono più usciti. Perché era un periodo in cui erano floridi le offerte del mercato che ti davano. E quindi tu, criminale, non potevi star fuori dal grande gioco del mercato. È una logica di mercato la criminalità organizzata in Italia, come lo è stato il terrorismo politico. E quando noi oggi dobbiamo mettere i puntini delle i tra prima generazione e seconda, lo dovremmo fare anche col terrorismo di estrema sinistra, perché un conto sono le Brigate Rosse a conduzione Curcio-Cagol, un conto sono le Brigate Rosse a conduzione Moretti, ad esempio, no? Ma in tanti gruppi possiamo fare questo ragionamento, non lo scopriamo oggi. Eppure, tantissime sono le produzioni scientifiche che ci raccontano i rapporti tra criminalità organizzata ed estrema sinistra. Pensiamo al sequestro Cirillo, tantissimi libri lo raccontano. alla politica cutoliana nelle carceri e alla politica di Senzani nelle carceri, che trovano lo stesso terreno di congiunzione. Pochissime sono invece i contributi scientifici o le monografie che parlano del rapporto tra terrorismo di estrema destra e criminalità organizzata.